senza perché. È troppo tempo che dorme, non so più cos'è. Sono abituato e narcotizzato, non ho più un'ambizione e forse religione. Ma adesso spiegami te, che in compenso a fede c'è chi pensa per me, beato chi ci crede. Meno male per me che adesso ci sei te. E li trasformo in miei. Noi qui siamo salvi e vivi. Siamo impossibili, incomprensibili, inseparabili, irraggiungibili. Siamo impossibili, incomprensibili, inseparabili, irraggiungibili. Vorrei spiegarti di più, sull'oro giallo e nero, ai conti in rosso e bilanci, giocati da guerriero. Vorrei dirti perché il lavoro non c'è. Troppa falsità, le ingiustizie del mondo che purtroppo vedrai. Facilmente dico, tu ce la farai. Ma adesso quello che vedo fa sorridere. Le espressioni mie coincidono con le tue. Siamo impossibili, incomprensibili, inseparabili, irraggiungibili. Noi qui siamo santi e umani. Com'è difficile e incomprensibile innamorarsi e poi e non lasciarsi mai. Noi qui siamo santi umani. Com'è difficile e comprensibile innamorarsi e poi e non lasciarsi mai. Siamo impossibili, incomprensibili, inseparabili, irraggiungibili.